Adesso voglio quella di Luca, vediamo un po'. Se la proviamo e spara parecchio, facciamo cambio a cambio, distacco e ci attacchiamo la mina, ci attacchiamo quella là, la proviamo e vediamo un po'. Facciamo questo attacco, è tutto. Quello sto pensando, quello, ho capito. Vabbè, vedete un po' com'è. Scappa, glielo ce l'ho. Oi. Luca, ci sei? Sta smontando, sta. E scappa. Stai preparando, ti stai? E stavo facendo... Mi stavo legando un po' di ame, capito? Un po' di ame di pesca, e dunque mi stavo preparando quelli lì. Giusto per tenerli già pronti, capito? No, pronta all'ultimo momento a legarmeli, cazzo, meglio me le leggo adesso, almeno fatto non ci penso più. Che capa, quel bene fai. Bene, ti arrivo il segnale, sì. Mi arriva i 9:15, radio 5. Sì, già basta. Luca era più basso. Luca era molto più basso di me. Lo vedi, tanto che quando abbiamo fatto quella modifica lì di cambiare l'antenna e abbiamo piantato la Ringo, vedi come spara molto più bene. È tutta una antenna. Diciamo che io la paragono alla Mantova piccola, dai. Cappa. Siamo molto arresa, cioè a qualità e prezzo, cioè conviene di più un Ringo, qualità e prezzo. Giustamente tu c'hai ragione, per come era prima l'altra, quella che mi ha dato Antonello Pomponio, mi ha prestato Antonello Pomponio, la cosa, come si dice, la... Vabbè, quella là che avevo, però quella là faceva disturbo TVI e non rendeva niente, però questa ho visto che come piazzata tutto quanto, che ha fatto quel lavoro là, messo le stampe murate a coso, grazie a Antonio Brote che mi ha portato quello che si chiama il tassello chimico, abbiamo fatto i furi con il trapano, tutto quanto, e l'abbiamo piazzata lì, nuove, sembra cemento, cazzo, un cavolo ce la fai a distruggerla. Comunque è molto buono il corso, ma io non la metto manco vicino a Rico, ognuno dice quello che cavolo gli pare le piace, ma io non la metto vicino. Ma uno può dire, la garanzia è molto superiore, il cazzo va a fare un giro, cioè prima di tutto è molto più alta di una garanzia, e poi ha una resa molto superiore. Quindi ognuno può dire quelli che parla di piante, però non ce la metto vicino. E già faccio fatti guai con l'antenna, ce l'hanno di vizio tutte le grampie. E non le ho messo, il palo, quell'altro palo che devo mettere, tu. Io ho già 2 metri di palo più l'antenna, capito? È murata così e sta uscendo abbastanza bene. Dunque non ne ho bisogno di mettere altro palo, capito? È un problema metterti quella, te l'ho consigliato anch'io. Vanno bene come antenne, sono anche robuste. Ma più che uno che ha detto che non era vero, basta montarle bene le antenne, non montarle a cazzo di cane. Cosa non è vero. Io per esempio sono una persona che sono... A me piace la perfezione montando quelle cose, così che se io penso che se la monto come dico io, non cederà mai, andrà sempre bene. È una cosa, ma quell'antenna che mi avevate fatto vedere una volta sul negozio, quella Turbo 2000 rossa, Ma ce l'avete ancora? Cappa. No, non mi ricordo adesso, l'avevo tolta da lì. Dimmi. Adesso è sempre lo stesso. No, ti sento bene. L'alimentato lo stai usando, Luca? Che alimentatore? Quell'antenna, cazzo, lì ci dice forte, a tua madre. Non è autocostruita, l'altra. Quella che avevi comprato, quella che ti sta condensando. Atto, quella lì, quando l'hai provata, quella lì era una bomba. Cioè no, non me ne frega niente, hai capito? quando è, però va bene, dai. Antonio. Antonio, buono. Gaffa, dai. Antonio. Devo ci. Fatti provare sotto a casa tua, sta facendo il tempo per me. Gaffa, dai, che mi sto mettendo il pantalone. Gaffa. Ciao, me. Vai, cosa ha fatto? Adone. Luca. Attenzione, Luca. Stato a fare quella cosa. Dammi 10 minuti, sono a casa tua, dai. Parlare del baracchino. Yeah, non hai capito, a tu. Quanto sono sotto a casa tua? Non mi imballare il baracchino. Mi mettere le scarpe. Yeah. No, grosso è grosso. Mi sembra portante e conosciuta. Buonasera, comunque. Ciao, Arturo. Come stai parlando? Con chi non stavo parlando? Anzi, non glielo sentivo. L'altro chi era? Flipper. Luca. Prima che non mi dici qua, cazzo sempre tu che è? Non lo sento. No, era Luca Flipper, era. Luca Flipper, ma costretto anche a arrivare quando vai più dici qua, adesso non lo sento più. Che cappa. No, non lo so, no. Prima... No, lo sai cos'è? Che stava cambiando l'antenna per far ascoltare a cosa, perché deve vedere a Leoncino, capito? Non lo so, prima lo sentivo, adesso no, non lo sento più. Mi stavo ascoltando la porcata e fatta schiacciata. Pensavo che non c'era nessuno. E allora che si dice? Scappa, mi sto aspettando a Leoncino che sta venendo a prendermi, andiamo da Luca. A vedere un poco. Antonio, me, io scendi. Ma sto scendendo. Ok, crack, ci sentiamo fra un pochino. Ehi, dai, fatevela buona, alle prossime. Ciao Giuseppe. Ciao Cla. Cappa, perché non sa dove andare. Vabbè, dai, ok. Mi dispiace che non potete continuare il corso. Sì. Vai tranquillo, vai, non c'è problema, tanto sto chiudendo, adesso mi sdraio un pochino, chi è che chiama? Ma ti ho conosciuta la prima. Col tocco che fa il mio microfono, che non è voce pure importante. Che ne altro, ok, dai, sto arrivando. Bannino di sorso. Allora, tu fai, dai. Niente, mi sono andato a salutare gli amici, visto che dalle altre parti ci sono solo cadaveri. Ho chiamato quattro volte e non hanno riposo nessuno. Abbo giramentami. E niente, adesso mi diamo una sistematica, poi mi sdraio. Stavo lavorando stamattina, ieri ho riposo, oggi invece ho lavorato. Tu invece sei in fissa, no? Riprendi da online. Io stamattina mi ho piazzato la manca qua, che mi hanno regalato, perché l'altra l'ho servito. Però ho messa qua, vabbè, questa tarazzo, anche cosa devo fare, poi qualche prova lo riuscivo un po' di tempo a cambiare, che devo cambiare l'apparato per mettere l'antenna per capire se l'altro va meglio, l'innovazione e tutto il resto. Tipo che non uso mai, lo voglio mettere a uso 9x3. Sì, no, tutta la mattina sono sempre stato mettendo a posto il telefono. Sono anche a 9, sono anche a 9, sta arrivando. Però so, io consorzio, non è che sono molto favorevole. Sono anche a 9, la radio è un po' cupa, ma abbastanza comprensibile. Ma non stai usando quello della Kenwood? Claudio, mi sente? No, volevo mettere la chiave in volante, ma se mi dai i cittadini mi faccio dietro, cambia i cavi, potevo capire. E fa già sono qua. Claudio, mi sente? Capito, sei tutto strappato, chi è? Antonio sono. Tutto strappato sì, però. Ora va, guarda, prova così. Non ti capisco molto, sei tutto strappato, ma in macchina sì. Guarda, in macchina. Ora va bene. Ma cosa? Lo sentivo male, Giuseppe. Oh, che? Ma tu cosa hai combinato? Senti la tre sta arrivando, oh, Luca Fippe. E sta arrivando, non mi dici, non perché non prendi il culo domani. Claudio. Sì. Guarda cosa va adesso, qua, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Senti un po' trappato, cosa hai combinato? Niente, non mi ha toccato nulla. Prova. Ora, ora, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Boh, io ti ascolto male, Giuseppe, ti ascoltavo bene prima, ho capito perché. Boh, ma che microfono è? Che microfono stai usando? Giuseppe. Avanti, Cla. Pronto, che microfono stai usando? Clara, quello F10. Mamma mia, ma perché non metti il microfono, ce l'avevi prima, cazzo? Ma quello che c'era, quello vecchio dell'altro paracchino, ho capito. Ah, questa è colpa di modulazione, non è bella come quella che c'era prima. Da so. Ora, ora, ora. Attento, panino di sosso. Zona opera, sono, dai, sono qua alla veloce. Claudio. E Giovanni. E me, questa lei o com'è? Ehi, molto meglio dell'altra. Oh, mi vado in viaggio, aspetta, è così com'è? Ti occupo, blu. Ah, va bene, ci ho una grata, va bene. Ma c'è santa tesa. Capito? E quindi niente, è un sistema un po' così. è un po' così, non sai, io ho un carattere molto, molto particolare, quindi quando le cose non vanno bene, me non sto lì a mandarle a dire, dico in faccia e basta. Non è che gli altri siano da meno, il problema è sempre uguale, te l'ho detto che funziona, se uno vuole uscire ne esce e se ne frega. Poi, cosa voglio dirti? Ognuno vede e profede. Ma si compreso, usava. Mi è partito l'antifurto e sto cercando di capire cosa è successo. Però adesso sembra che funzioni. Non ho capito niente, perché è tutta SMD, però era giusto per capire com'era. Oh, via, e cosa vuoi fare? Tanto te l'ho detto, guarda, queste cose succedono per tutto, sono sempre successe, sempre succederanno, e cosa vuoi a dirti? Ah, che casino, so che c'è un po' di malumore, però non so di più altro. Posso niente. Sono mesi che non ci vado neanche io. Però che ho la testa anche più tranquilla e non me la fu tenuta, Poi adesso vediamo cosa fare. Ma l'intenzione era di non rinnovare. Però, siccome non me ne frega niente di 70 euro, non è che mi pesano lo stesso, per dirti, non è che. Però. Anche questa, ma non per la stazione, non è per la di Milano, sta diventando un troiaio, non so se hai visto e notato un po' di cose, ma è uno schifo. Io ho notato, Giovanni, e mi hanno mandato anche la documentazione per le votazioni alla di Milano, cioè il cazzo mi manda mai le cose da buttare, io non conosco nessuno di quelli che sono lì nel direttivo, c'erano tre nominativi della Sardegna che neanche conosco, poi mi ha dato l'input Antonio, vota così e così, ma mi ha detto, ma a me cosa me ne ha fatto, non ho votato nessuno, ho spedito tutto indietro e ho scritto che non avevo opportunità di votazione perché non conosco nessuno, quindi non devo votare gente che non conosco e non ho votato. Allora siamo in due che non ho buttato, c'è ancora qui la lettera, non me la futti nulla, faccelo quello che credono, tanto così che funziona. Sì, è così, poi è un disastro. Adesso aspettiamo e vediamo. Quando è che sono le cariche, le nuove cariche da noi, qua alla sezione aria di Sassari, non sai? No, non lo so. Sinceramente ancora non lo so, ma dovrebbe essere ogni 3 anni, quindi so che insomma c'è qualche problema. Beh, allora non funziona la sirena, quanti anni sono passati? Non me ne ricordo più. Non lo so, presidente in carica quanto c'è, 2 anni, non lo so. Ma credo questo sia l'ultimo anno. Non lo so. No, a me è piaciuta molto le dimissioni di Antonio. Moltissimo, perché è un perno per la sezione, uno che ha sempre dato, fatto. Poi ti ripeto, Vanni, cosa sia successo non lo so, a me mi ha mandato un'email dicendo che appunto lui non era più nel consiglio direttivo. E vabbè, pazienza, cosa vuoi affatti. Poi tutto il resto non lo so, perché sì, qualcuno mi ha detto che c'è un po' di maletta all'interno del direttivo, però non ci ho capito niente, non so niente, ti ripeto, anch'io sono 6 o 7 riunioni che non ci vado, forse o 5, non lo so. Mi sono sistemato tutte le quote proprio per arrivare a fine anno, che non devo dare niente a nessuno, e basta. Ho chiuso, no? Anch'io ho mezza intenzione di non rinnovare, però ti ripeto, anche parlando con Marco mi ha detto rinnova, perché sai, è meglio per le QSL, per le cose necessarie che servono, e quindi anche se mi pesano in questo periodo è 70 euro anche all'anno, perché se ti fai i conti 72 euro all'anno, baffa cosa, t'hanno venduto una radio rivista che ce li ho tutti ancora col nylon, manco l'elenco, però cosa vi fa? È un servizio e facciamolo, ciccio. Giustamente valuta a modo suo, è così, non è che si può pretendere chissà che cosa. Ah, vai, ha detto, ma sono così, sono propenso a farlo di nuovo, mi scrivo, però aspettiamo. Qualcosa dovrà succedere prima o poi, no? Non è solo il discorso di anni, no, ma sono tante cose e quindi è così. Quando sei in mezzo ma delle volte è difficile uscirne, pure se ne esci poi c'è dei pensamenti, e chiaro lo stesso, c'è una cosa qua, vabbè. E sì, comunque, ognuno è libero di scegliere. Certo, io quest'anno ci provo e poi vediamo. E la stessa cosa ti dico io. La stessa cosa ti dico io. Vediamo un pochino, adesso a gennaio con le nuove cariche, nuove cose, di fare il rinnovo e poi vedere. Tanto sarà molto difficile che frequenti e che faccio tutto lì. Vabbè Vanni, dai, ti saluto e vado a tagliarmi un pochino. Un'oretta me la volta, avevo un freddo a Sassari allucinante. Mi assorso com'è il tempo. Sì, vabbè, c'era forse qualcuno che stava chiamando. È freddo lo stesso, però non è così esagerato. Qui rimanendo un po' più chiusi, giustamente, c'è un po' di, diciamo, più mite la temperatura. Allora, va bene, ci sentiamo, se c'è novità, ci sentiamo. E Giovanni, cioè ci aggiorniamo telefonicamente, dai, oppure mandami un'email, non ne ha dato. Scrivimi qualcosa, già lo sai, la mia posizione. Già ve l'hai scritta, non c'è problema. Mandamela ogni tanto e qui ci scambiamo due mail, due chiacchiere, vediamo un pochino, dai. Ciao Vanni, saluta la signora e i bambini e fatti il buon fine del festivo e poi già ci aggiorniamo, dai. Allora una parte o dall'altra già ci aggiorniamo, ma ti intendo una cannonata anche in voi, no? Quindi non c'è problema. Qua nel canale 10 quando vuoi, anche in FM ci spostiamo sul 10, sul 20, dove vuoi non c'è problema, ci facciamo due chiacchiere. Ciao Vanni, buon fine serata, buon tutto e ci aggiorniamo. Ciao. Funzionando, anche ti porta via un po' di radio, capito Giuseppe? E con questo che ci dice, va bene, va, ti lascio riposare, dai mini 144 e ce la risentiamo stasera se coincide, ciao ciao. Ciao Giuseppe, ciao, sono qualche Antonio, a tutti quelli che sono in ascolto, ci sentiamo stasera, ciao. Ciao, ciao, salve. Ciao, carissimo. Ciao, ma bene, c'è un disavario. Beh, la tremolanza è un po' più forte rispetto a quella di Giuseppe, però rimane sempre un po' cupa, capito? Ma c'era un po' io, Giuseppe, l'ho ascoltato una bomba dalla macchina. Da quando ha cambiato baracchino lo ascolto bene, però non come esce lui, capito? Capo, guarda me adesso che non ce n'è. Bene, bene, molto più chiara di quella di Giuseppe la radio. Capo, mamma mia, mi sta ammazzando ogni sabrosa. Io che non fumo poi. Fumo? Allora, io non fumo. Mamma mia. Cioè, me ammazzendo un cagazzo sigaretta. No, io se c'è uno che non fuma, che in macchina con me io non fumo. A parte il fatto che in macchina non fumo, fumo solo in quella dell'azienda, perché è una furgonetta. Però se c'è colleghi che non fumano, io non fumo, capito? L'alpazia, la sigaretta, Giuseppe, l'alpazia. Qua c'è le luci gialle. bisogna sintonizzare la sala con quell'apparato, capito? Con quello, col barattino. Bisogna fare le modifiche, capito? Ho visto il dattore, ma ne ha uno da 13 ampere, non va bene. Va benissimo, va. E adesso vediamo per quanto me lo dà. Glielo metto, glielo porto qua, allora lo distacco dalla macchina e lo metto, lo faccio funzionare qua, capito? No, vanno benissimo, va quella K. Detto. E K, forse se li cambio il microfono in quell'altra parte là, in quell'altro apparato, forse uscirà molto più bene. La macchina. E io? Ah, perché non ti prendi mai meno 95 e li fai la modifica? E quello che ci ha accusato? Sì. E adesso, se mi entrano i soldi, io lo cambio, capito? Ma tra adesso metto quello là e vediamo un po'. Non ti bigigli. Scappa. Metti una modifichetta alla capsula e pompa che è bella. Te l'ho fatto mai sentire il mio? Quello che hai preso da Fusaro? L'M95 il mio. Che cosa? Il microfono? Scappa. No, quello no. Aspetta 5 minuti da attacco, te lo faccio sentire con la radio. E prova. Scappa. L'ho modificato, eh. Vabbè, dai, provalo. Tempo. Sì. Luca Flipper. Eccomi qua, Giuseppe. Eia. Allora non mi scelti con questo microfono. È buono tu. Buono, Luca. Eia. Come lo senti, Antonio, con quell'altro, con un altro apparato? È meglio perché mi riesci tu, ma io non ho fatto tutto. Questo mi l'ha fatto. Scappa, io non ce l'ho la voce cupa. Scappa. E allora se sento un'altra persona è peggio di me. Su Skype se. Ce l'ho anche io Skype. Quello classico, dai, non ce l'ho io. No, no, sono buone le antenne, sono veramente buone. Contano, c'hanno un buon guadagno, fanno verticale orizzontale, quindi hai capito, non c'è nessun problema. Se dovessero per dire entrare qualche segnale che entra in orizzontale, per dire, lo prendo subito. A me non mi piacciono, tu puoi dire quello che vuoi, ma io l'ho provata, ma no, per carità. Ho rimesso subito questa qui. Ognuno ha la sua opinione, a me non mi piace assolutamente come antenna. Dico la verità. Perché prima di tutto abbiamo due polarizzazioni diverse qua a Sassari. E così che sei costretto a mettere le antenne così. Poi tutti la puoi pensare come vuoi, a me non piace. L'ho provata e cose, sono rimasto deluso e non ho voluto più mettere. Ho messo l'antenna normale. Ma lì c'è la piazza per la tarina, quella lì. Per la VHF è un demonio con l'antenna. Con l'amplificatore che abbiamo agganciato, figurati. No, funzionano bene, danno un buon guadagno con le antenne. C'è un segnale, quella che dovrebbe dare la tarina, è un fosso, già l'hai visto. Non prendeva nulla da piano terra. Quando ho pensato a quella con l'amplificatore veniva benissimo, la lei uno. Lei di uso tutto quella, con quella antenna lì. Poi, siccome la messa l'ha fatta in petta, aveva un bel male, allora meno male l'ha pettata sotto al petto, adesso vede benissimo, non si è mai lamentato. Prego, con buono, scusate se vi disturbo. Yeah, ciao Tonè, buongiorno. Buongiorno, scusate un attimo, ma allora il colore di quella resistenza è arancione, grigio, nero, oro? Arancione, grigio, nero, oro. Aspetta che me lo segno. Certo. Ok, Luca. Ma più lungo. Se ti piace. Adesso è meglio. Va bene adesso, sì. Che pagata. Ma io già non buono perché le antenne sono buone. Aspetta, la c'è quanto me. Quella resistenza, se ce l'ho. E poi se la trovi, se no pazienza, e diciamo tutta la struttura è come può rimanere, una specie di colore cappellate chiaro, diciamo il colore base, e poi i colori sono arancione, che è poi una specie di rosso molto schiarito, da sull'arancione, grigio, nero, oro. Aspetta, la sto cercando. E qui peraltro c'è Paratonello. Qualcuno anche la cosa che non mi... che non mi deve mettere il nome adesso. La fa cuffia Luca. Flipper. Posso sentire a Luca? A me stai dicendo, Mongolo? Buon buono. Quindi che lo sento. Ti ho salutato. Poi ho saltato anch'io poco fa. La gente è subito finita questa cosa. Quello pure lui, quello mi manda la televisione. Senti. No, io sto parlando delle altre, quelle che fanno di meno. grigio, nero e oro. Sì. Sì, sì. Ascolta, vabbè, allora, scusate gli altri, ma la stessa grandezza quello che ti ho fatto vedere io. È grossa, capito? È diritto per il grigio qua, però è grigio, cioè arancio, grigio, non è l'oro proprio. In quello del circuito di Colmiva, comunque è guarito. Già, già ce l'ho comunque. Ciao, dai, io mi saluto, mi sto bloccando, ce la sentiamo dopo. Ehi, ciao, bombolo, se vengo a prenderla, Antonè, me la porto via. E la pigliata, qual è il problema? Già sono qua, già non fuggo. E allora ci faccio un salto di 3 minuti, me lo porto appresso e la confrontiamo, per esempio il colore è quello, e poi me la piazza a casa. Sì, tiro tutto il circuito del mio, tanto non me faccio niente, il televisore per pezzi, capito? Non c'è problema a me, serve solamente quella resistenza, io porto tutto qua, tutto il petto. E poi la confrontiamo, se va bene non faccio altro che la stacco e gliela piatto io. No, se mi potete dire la piatto io, solo che non so stagno, mi potete dovete fare la trappola di stagno per saldarla, capito? Perché c'è lo stagno cinese e quello ci vuole, sembra lo stagno per cazzare la moto. Io un pezzettino già c'era, no, non serve a niente, poi vai a saldare si forma l'ossido, si forma pallina, no, non serve a niente, ci hanno fregato una volta. Solo quella mi serve e basta. Vabbè, poi la confrontiamo, l'importante è che abbiano gli stessi colori per il valore suo e basta. L'unica parte scaldata è quella blu. C'è anche un arancio bianco e giallo qua dentro. Vabbè, già c'è comunque. Ti confrontiamo, già ne ho dopo qua. Allora, se faccio un salto 5 minuti in contatti, ci sono problemi? Che fai quando vuoi, Antonè. Ma sono, ma scende? Sì, scendi, sono qua, cazzo.